Savonarola, il frate che fece tortura a Firenze e all'epoca era peggio di Abu Ghraib. Stagione 2, un programma prodotto da e per Radio Big World. In realtà sono prose scelte scritte da Pasquale Villari quando gli esseri umani vivevano con gli animali per necessità, cibo, calore e spazio, finita lì. E lette oggi da me quando gli animali continuano a vivere con l'uomo ma per diletto e invece di fornirgli loro cibo, calore e spazio glielo forniscono gli umani. Ma c'è dell'altro. Villari, se possedeva un animale, se ne definiva proprietario e faceva bella figura. Io, se possedessi un animale, per fare l'unica figura socialmente accettabile sarei costretto a definirmene genitore. In moltissimi ambienti questa bestiale genitorialità è diventata la norma. D'altra parte dice il proverbio: se il cavallo è buono e bello, non guarda razza e mantello. E comunque, di can che è molto abbaia, trista la pelle. Serio. Capitolo 11. Ultimo giorno in pretura. Il 19 maggio entravano solennemente in Firenze i commissari del Papa, Gioacchino Turrino, generale dei Domenicani, e Francesco Romolino, vescovo di Lerda, assai noto più tardi col nome di Cardinal Romolino. Intorno a loro s'affollava il basso popolaccio gridando «Muoia! Muoia il frate!» e il Romolino rispondeva sorridendo «Morrà ad ogni modo!» Infatti Girolamo Benivieni aveva scritto da Roma che i due commissari venivano con ordine di far morire il Savonarola fosse pure un San Giovanni Battista. Né essi ne facevano mistero, giacché non appena furono alloggiati in San Piero Scheraggio, il Romolino, volgendosi a quei magistrati che gli erano intorno, disse: «Noi faremo un bel fuoco, io ho già me con la sentenza in petto». L'indomani, 20 di maggio, la tortura era in ordine e il Savonarola cominciava a subire una terza esamina. V'erano presenti, oltre ai commissari del Papa, Paolo Benini e Biagio Di Giovanni per i gonfalonieri di compagnia, Giovanni Canacci per 12 buoni uomini, Piero degli Alberti per i 10, Francesco Pucci per gli 8. Quanto a Ser Ceccone, non essendo rimasti molto soddisfatti di lui, lo facevano assistere al processo in compagnia di altri, a ciò la emulazione potesse aguzzargli l'ingegno a meglio e più efficacemente alterar le risposte. Le domande erano già scritte, onde sempre più agevolare la fatica del notaio. I commissari del Papa venivano deliberati a far vedere come si doveva adoperare la tortura e come falsare le risposte per ottenere tutto ciò che si voleva. Essi torturarono ferocemente il misero frate e le prime domande furono intorno all'affare del concilio, ma più specialmente intorno ai complici di questa impresa. Il Savonarola disse: «Vi risponderò chiaro che le cose del concilio non mi furono consigliate da nessuno, che solo negli ultimi tempi ne feci parola a qualcuno dei frati. Coi principi d'Italia non tenni mai pratiche perché li stimavo tutti i miei nemici. Speravo però che i principi stranieri dovessero favorir l'impresa a cagione dei cattivi portamenti della corte di Roma e massime il re d'Inghilterra per aver inteso che era buon uomo. Quanto ai cardinali e prelati li stimavo tutti i miei nemici». Interrogato circa al farsi rivelare le confessioni, subito rispose che né egli lo chiedeva né i suoi frati lo avrebbero mai fatto. Il Romolino cominciava ad accorgersi di non ottener nulla e veniva perciò sulle furie e minacciava, ma quando vide che le minacce erano inutili ordinò subito che il Savonarola fosse spogliato e rimesso alla tortura. Egli allora, volgendosi intorno, diceva apertamente: «Orsù, ditemi, signori fiorentini, siatemi testimoni! Io ho negato il mio lume per paura dei tormenti, se io ho a patire e voglio patire per la verità. Ciò che io ho detto l'ho avuto da Dio!» In questo mezzo veniva spogliato e rimesso alla tortura, ma quelle parole furono trascritte con poche alterazioni perché troppo chiare e con troppo grande fermezza pronunziate. Torturato fierissimamente, il Savonarola ricadde nel delirio e nelle risposte ambigue che venivano affatto alterate dal notaio. Ma quando si giunse ai punti importanti della dottrina, allora di nuovo la tortura e le alterazioni non valevano più a nulla. Lo interrogarono se avesse mai voluto dividere la Chiesa di Cristo e subito, quasi svegliandosi dal delirio, rispondeva: «Giammai, se con ciò non si voglia intendere da alcune cerimonie con le quali ristrinsi la vita dei miei frati. Ben è vero però che non ebbi mai paura delle scomuniche». L'indomani ricominciavano il processo con una dichiarazione che doveva riconfermare tutte le cose già scritte nelle esamine antecedenti, ma essa è così priva di ogni buon senso che non può avere alcun valore, come non ne ha nessuno tutto questo processo falsato assai più del primo ed in cui difficilmente può indovinarsi qualcuna delle risposte genuine. Si continuò poi facendo mille strane e ridicole domande come se aveva mai sostenuto che Gesù Cristo fosse solamente uomo, al che rispose «Queste sono cose da matti!». Gli chiesero se credeva agli incantesimi ed egli «Sempre me ne feci beffe!». Il Romolino tornava da capo sull'affare del concilio per saperne i fautori e massime se v'era stato il cardinale di Napoli. Domandava e ridomandava con le promesse, con le minacce e con la tortura, fino a che il Savonarola, dopo avere mille volte negato ogni pratica o consiglio d'altri, gridava quasi fuori di sé «Napoli, Napoli, con lui e con altri ho tenuto pratiche!». Ma il giorno seguente il suo primo pensiero fu di smentire subito ciò che aveva detto nel delirio a danno altrui. «Né col cardinale di Napoli né con altri ho trattato le cose del concilio». Allora il Romolino si persuase che non v'era più da cavar nulla, che la tortura e l'abilità dei suoi notai non riuscivano a formare un processo che giustificasse la condanna, e però tornava inutile perdere più tempo. Fatte quindi alcune brevi domande, citò il Savonarola a comparire l'indomani per udire la sua sentenza. «Io sono prigione», egli rispose, «verrò se mi ci condurranno». Ma non era anche tutto finito. Il giorno si trovava presso al morire, suonavano le ore 23 e il frate meditava tranquillamente nella sua prigione, che fu a un tratto invasa da 5 cittadini. Costoro, insieme col notaio, volevano tentare se in quell'ultima ora, così alla sprovvista e dopo tante angosce di spirito e di corpo, il Savonarola si lasciasse piegare dalle minacce. Volevano saper cose di stato per rafforzare quel primo processo che solo si era pubblicato e di cui tutti rimanevano scontenti. Egli non fece che ripetere con calma quello che aveva già detto. «Io lasciavo la cura di tutte le cose particolari al valori. Lo scopo dei miei amici si riduceva in fondo a tenere il consiglio provvisto di uomini popolari, procedere severamente contro agli avversari, quando però cadessero in fallo, essere uniti e forti, non per offendere, ma per trovarci pronti alla difesa». Così finiva il terzo processo, del quale i commissari apostolici non potevano andare punto orgogliosi. Dopo tante promesse non avevano fatto altro che rendere coi vani tentativi sempre più evidente l'innocenza del Savonarola. Questa esamina quindi non fu stampata né firmata né letta al pubblico, restò come interrotta e non più curata. La tennero nascosta e solo ne mandarono qualche copia in giro per le corti d'Italia. Tutto questo peraltro non impedì che in quel medesimo giorno 22 d'aprile i commissari apostolici si radunassero onde deliberare intorno alla vita dei tre frati. La cosa fu presto risoluta. Quanto al Savonarola e a Fra Salvestro non si fece neppure discussione, fu decisa la morte. Volendo poi in qualche maniera temperare la trista impressione che doveva fare sugli animi una tale sentenza, il Romolino proponeva che si risparmiasse la vita a Fra Domenico. Ma fu da un tale osservato che in questo frate rimarrebbe viva tutta la dottrina del Savonarola. E allora il Romolino subito riprese: «Un frataccio di più o di meno, poco monta, mandiamolo pure a morte». Nello stesso tempo s'era radunata una pratica assai ristretta per discutere la sentenza. Non vi fu che un solo, per nome Agnolo Pandolfini, il quale si levasse a parlare in favore del Savonarola, dicendo come a lui sembrava gravissima colpa il porre a morte un uomo di qualità sì eccellenti che appena se ne vedeva uno in ogni secolo. «Quest'uomo», egli disse, «potrebbe non solamente rimettere la fede nel mondo quando la fosse mancata, ma ancora le scienze di cui è sì altamente dotato. Io perciò vi consiglio di tenerlo in prigione, se così volete, ma serbarlo in vita e dargli modo di scrivere, a ciò il mondo non perda i frutti del suo ingegno». Tali parole vennero assai male accolte nella pratica e subito fu risposto in contrario, che nessuno poteva affidarsi alle nuove signorie, le quali ogni due mesi si succedevano. Il frate sarebbe certissimamente tornato libero per mettere di nuovo la città a soqquadro. Nemico morto non fa più guerra. e in tal modo venne deliberata la condanna ad un uomo che, dopo tanti processi, dopo una tortura così prolungata, risultava sempre più innocente, e quella dei suoi due compagni che erano al pari di lui innocenti, perché in verità se la innocenza di Fra Domenico fu tale da venire attestata dai suoi medesimi esaminatori, Fra Salvestro, quantunque rinnegasse il suo maestro, non risultava però colpevole d'alcun delitto che le leggi avessero potuto condannare. Intanto, quella medesima sera, venne loro comunicata la sentenza, a ciò vi fosse tempo d'apparecchiarsi all'ora estrema. Fra Salvestro parve assai atterrito, Fra Domenico invece fu come invitato a festa.